Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, puntata tutta dedicata alle innovazioni nel retail, dallo shopping alla spesa di tutti i giorni, a partire dall'evento che ogni anno individua le principali tendenze nel settore, con i casi che fanno scuola in Italia e nel mondo. Tra pochissimo vi raccontiamo le evidenze di quest'anno, un anno che noi definiamo l'anno zero del retail. È stata una delle eredità del lockdown che ha ispirato nuovi servizi. Parliamo della collaborazione di vicinato. Dai palazzi di Milano ora parte la spesa di condominio. E poi dal carrello connesso al voice shopping, focus sui trend dedicato al retail tech. Emporio Querciola Vagabonda. Oh, è sauna! Saldi grande svendita. Costumi a metà prezzo, zoccoli e protezione solare di mia invenzione. Ya? Multicanalità, attenzione alla sicurezza, live commerce. Queste le parole chiave del retail secondo le tendenze individuate per Key Best 2020. L'evento firmato Kiki Lab e Beltoft Italy che analizza il settore alla luce della crisi globale. Fabrizio Valente. Questo è stato un anno certamente unico, abbiamo totalmente cambiato un po' l'approccio e innanzitutto noi, essendo l'unico membro di questo network mondiale, abbiamo creato una task force con tutti i nostri partner e quindi anche uno scambio molto molto frequente di informazioni sui diversi mercati. Da un lato lo sappiamo, c'è stata una forte accelerazione del mondo della digitalizzazione a 360 gradi, anche dell'e-commerce, però attenzione, noi vediamo anche con i numeri che quella dell'e-commerce è stata una forte accelerazione, non è e non sarà una rivoluzione, per cui i negozi fisici continueranno a essere molto importanti, ma dovranno cambiare, nel senso che dovranno essere sempre più integrati con tutti i canali digitali. E l'attenzione alla sicurezza in realtà va di pari passo con lo sviluppo di un approccio sempre più multicanale del retail. Che cosa significa? Significa banalmente che il processo di acquisto dei clienti, di noi come persone, è un processo che deve prevedere sempre di più la possibilità di prendere delle informazioni prima di arrivare al negozio, in modo da poter aver già deciso magari quello che si vuol comprare e ad esempio spendere anche meno tempo nel negozio, questo andando incontro anche a un'esigenza di maggiore sicurezza dei clienti. Oltre alla digitalizzazione, che è più appunto multicanalità, come ci hai spiegato, quindi questa osmosi tra fisico e digitale, quali saranno le altre tendenze che si evidenzieranno nel panorama retail? Allora, da un lato abbiamo tutta quest'area che è un po' quella della razionalità, quindi il tema della sicurezza, di avere un processo di acquisto più veloce e semplificato. Vediamo ad esempio anche la forte accelerazione che catene come Esselunga stanno dando tutto il processo della multicanalità con i loro lockers, con la possibilità di fare appunto quindi il click e ritira. Avremo nel nostro convegno una testimonianza cinese di Seven Fresh, che è una catena di supermercati molto innovativi di uno dei più grandi gruppi cinesi, che addirittura fa una consegna dal negozio in soli 30 minuti nel raggio di 3 chilometri, quindi una efficienza incredibile per velocizzare la consegna a casa dei clienti della spesa. Però vediamo che ci sono anche altre strade, ad esempio, sempre in un tema di semplificazione, c'è un tema molto interessante di sviluppo di possibili partnership. C'è poi tutta l'area molto importante che si affianca a quella della razionalità, della emozionalità. Significa, per esempio, riuscire a sorprendere i clienti con delle piccole sorprese. Vediamo che nel campo delle promozioni, ad esempio, hanno sempre più successo le cosiddette short collection o addirittura le promozioni instant, quelle che immediatamente danno un piccolo premio al cliente. Poi c'è il tema dei servizi che è molto interessante. Conad, con il suo nuovo format di ipermercato, Spazio Conad, ad esempio, ha molto ampliato tutti i servizi per le persone con la parafarmacia, che include nutrizionista, esami anche particolari per la persona, i servizi per gli animali domestici, che è un tema in grande sviluppo, quindi elettroettatura sia self-service che professionale. E poi, diciamo, un altro tema per cui la multisensorialità si sposta anche su nuove dimensioni è quella data dalla cosiddetta frontiera dell'e-commerce, quindi sostanzialmente di avere delle dirette dai punti vendita con la presentazione dei prodotti in modo da poter fare degli acquisti o degli ordini da remoto. Ad esempio, in Brasile, nel settore della cioccolata, questa catena Dengo che offre questa esperienza che sta avendo un grande seguito. Se dovessi chiederti di identificare in questo momento un settore più all'avanguardia di altri, alla luce proprio dei casi che fanno scuola nel mondo, che cosa mi diresti? Io devo dire che l'abbigliamento è un settore che sta soffrendo quasi più di tutti gli altri e per questo però sta anche innovando tantissimo, sia a livello internazionale sia anche in Italia. Abbiamo vari casi interessanti, penso per esempio a Elena Miró, quindi alla capacità di velocemente di trasformare i negozi in boutique, di trasformare un approccio molto spinto sul self-service a un approccio molto assistito, che significa anche sempre di più lavorare per appuntamento con i clienti e con le clienti in negozio in modo da evitare sovraffollamenti nei negozi, appuntamenti che possono essere fatti in negozio ma che possono essere fatti anche da casa per i clienti con appunto tecniche di videochiamate da casa al negozio, dove le addette delle boutique possono consigliare le clienti facendo vedere dal negozio l'assortimento e addirittura arrivare a consigliare alla cliente quale outfit costruire, facendosi anche mostrare quali sono i capi del guardaroba domestico, quindi integrando fortemente, no, una dimensione domestica con quella del negozio. E come spesso succede, sono proprio i settori che soffrono di più quelli che poi sviluppano maggiormente l'innovazione. Il condominio come bacino di opportunità. Questa è la filosofia alla base della seconda storia che vi raccontiamo. Una filosofia evidenziata dai mesi del lockdown con una rinnovata solidarietà e responsabilità di vicinato. Ora LaserWall, la bacheca digitale studiata per i condomini, lancia dai palazzi di Milano la spesa di condominio, l'iniziativa che offre ai vicini di casa la possibilità di organizzarsi in gruppi per acquistare prodotti e servizi a prezzi vantaggiosi, alimentari ma non solo, perché parliamo anche di visite e analisi mediche a domicilio, addirittura test sierologici e tamponi, oltre a baby e dog sitting. Ne parleremo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, dal lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, stiamo parlando della spesa di condominio lanciata dall'Aserwall. Ci racconta tutto il CEO e founder Salvatore Dolce. La spesa è l'innovativa funzionalità di Aserwall che permette ai condomini di avere accesso a un network di produttori locali e non per acquistare a condizioni agevolate. La logica che è alla base è la logica di gruppo d'acquisto. Quindi gruppi spesa che fanno capo appunto al condominio, quindi sostanzialmente vicini di casa, che possono visionare e prenotare i loro acquisti tramite la vostra bacheca, che è una bacheca digitale. Esatto. Ricordiamo di cosa si tratta, una bacheca condominiale digitale. L'Aserwall è un monitor touchscreen da 21 pollici e mezzo installato all'ingresso del condominio ed è collegato a un'applicazione per smartphone. Il monitor funge da vetrina per osservare tutte quelle che sono le funzionalità e le offerte dedicate in quel momento. Poi tutta l'operatività viene svolta nell'applicazione, quindi dall'applicazione il condomino può scegliere il negozio convenzionato o anche i servizi di assistenza sanitaria a domicilio o arriviamo anche a produttori di cibo per animali e formare in modo naturale gruppi d'acquisto. Funziona che un condomino che è interessato ad acquistare un prodotto manifesta questo interesse alla comunità condominio tramite l'app e poi ognuno si iscrive fino al raggiungimento di una soglia minima di prezzo che sblocca l'acquisto e così il condominio riesce a risparmiare dal 30 al 50% rispetto ai prezzi soliti che sono sul mercato o nei supermercati classici. Un bel servizio che stiamo promuovendo tramite il nostro partner che si chiama Delivery Care sono le prestazioni sanitarie a domicilio. Sul tampone, ad esempio, arriviamo a sconti fino al 40% rispetto ai prezzi di mercato per questo servizio. Vedo citate anche ecografie, radiografie a domicilio, addirittura dog sitter condominiali, babysitting, insomma l'innovazione sì. Sta anche proprio nella tipologia di offerta. Sì, per alcuni servizi, ad esempio i servizi di babysitting, riusciamo anche ad ottimizzare gli spazi condominiali inutilizzati. Che costi ha l'attivazione di Aserwall? Come funziona? Chi deve richiederla? È un servizio completamente gratuito per il condominio, non ha nessun costo, noi ci occupiamo di tutto, dall'installazione alla connettività di rete. Viene richiesto semplicemente tramite il proprio amministratore di condominio. Ovviamente noi poi andiamo a basare tutto il nostro modello di business sui nostri partner che ci riconoscono una commissione o un canone fisso per poter promuovere i loro servizi. Ecco, quindi per il condominio è costo zero. Focus sui trend. Impossibile ormai parlare di retail senza parlare di innovazione, innovazione non solo tecnologica ma anche di formato, di distribuzione, di comunicazione. Parliamo di retail tech nel focus sui trend di questa settimana, lo facciamo attraverso i casi che ha rintracciato per noi Luisa Schiaro di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e anche a te ben trovata e anche a tutti gli ascoltatori naturalmente. Partiamo dalla GDO con l'innovazione che sta interessando l'oggetto, lo strumento simbolo diciamo così della GDO, il carrello della spesa. Allora iniziamo con gli Stati Uniti, Amazon ovviamente non poteva mancare, siamo a Los Angeles, è già arrivato in una fase non più di sperimentazione ma aperta a tutta la popolazione il primo suo supermercato Amazon Fresh. Quindi prodotti freschi, verdure, frutta, ma anche da banco o da forno. Cosa interessante è che alcuni carrelli chiamati Amazon Dash Cart sono stati strutturati con tutta una serie di tecnologie avanzatissima di lettori ottici piuttosto che comunque scan che sono in grado di verificare, riconoscere il prodotto che avete inserito nel carrello, inviare automaticamente il costo al vostro account Amazon e quindi consentirvi di bypassare completamente ormai le casse. Secondo caso, sempre all'interno di questa wave, come diceva Maria Luisa, del carrello, della sua evoluzione, è invece in Europa, in particolare in Francia, a Parigi. Monoprix, molto recentemente, ha riaperto uno dei suoi flagship, possiamo dire a Montparnasse, 5 dei carrelli all'interno sono stati realizzati in modo che addirittura in questo caso voi non inserite nemmeno i prodotti nel carrello, ma li selezionate, chiaramente dovete avere scaricato l'app Monoprix et moi, e a questo punto la vostra spesa vi verrà recapitata, in questo caso a casa, con poi dopo anche in questo caso il bypassaggio alle casse. Rimaniamo nel settore, abbiamo a che fare con altri due colossi, questa volta l'innovazione riguarda però il canale online. In questo caso invece si fa riferimento alla spesa online e soprattutto a casa, con però l'aggiunta di questa tecnologia voice, diciamo gli assistenti vocali che tutti conosciamo, che però ultimamente sta diventando un vero e proprio trend come voice shopping, cioè il potere utilizzare la voce per fare lo shopping. Di nuovo in Francia, Carrefour, in questo caso in partnership con Google, hanno lanciato una spesa vocale con i Google Assistant, quindi voi da casa avrete la possibilità di collegare l'account Google con, in questo caso solo lo shop online in Francia, e semplicemente dicendo ok Google facciamo la spesa, piuttosto che okay, Google compriamo la carne, avrete la possibilità di realizzare la vostra lista della spesa. Ma la cosa veramente interessante è che voi potrete sia selezionare un prodotto generico, il pane, il latte, che piuttosto dare una marca specifica che vi piace, ma nel caso della vostra richiesta generica sarà l'algoritmo che sulla base del vostro pregresso sceglierà per voi il brand preferito. Quando la profilazione è al servizio della facilità d'uso e della velocità in casi come questo. Il prossimo è molto interessante, ugualmente interessante, parliamo però di innovazione di filiera. Sì, un'innovazione diversa, perché in questo caso di nuovo è l'uso della tecnologia, però se vogliamo ha un fine anche sostenibile. Siamo di nuovo negli Stati Uniti e Chipotle è un brand molto conosciuto, molto diffuso di ristoranti, con una particolare attenzione alla cucina messicana. Durante in questo caso proprio il periodo di lockdown, questa azienda ha realizzato una sorta di vetrina virtuale all'interno del proprio sito per le aziende che sono fornitrici, quindi una sorta di farmer market virtuale. Quattro dei fornitori, appunto, aziende agricole fornitrici, potevano essere messi in contatto diretto con i consumatori che avrebbero poi acquistato non tanto quindi prodotti già rielaborati, i piatti di Chipotle, ma i prodotti diciamo base delle aziende, dai formaggi alle carni. Una diciamo ricaduta positiva in un momento in cui probabilmente questi farmer sarebbero stati piuttosto in difficoltà durante la pandemia. In chiusura un caso tutto italiano, siamo a Roma, raccontaci. Proprio nel pieno centro di Roma, in via Barberini, è stato aperto, anche in questo caso molto recentemente, un singolarissimo caffè. È un bistrò a tutti gli effetti, dove si può consumare la colazione, il pranzo, piatti sfiziosi, ma il nome, che è Coin Bar, forse ci fa già intendere una sua specificità, che è il fatto che sia possibile e necessario acquistare solo con le criptovalute, quindi dai Bitcoin, eccetera. E nasce proprio con l'intento da parte di coloro che l'hanno progettato, da un lato di creare una sorta di punto di incontro, se vogliamo, sia per coloro che già utilizzano le criptovalute, ma anche proprio di esplorare questo tipo di modalità di acquisto attraverso questo tipo di monete. Quindi all'interno ci sono proprio persone che possono fornirvi informazioni, piuttosto che momenti di condivisione in cui vengono approfonditi tutto ciò che riguarda questo mondo che probabilmente molti conoscono, ma forse non tanti hanno ancora effettivamente affrontato concretamente. La cosa interessante, chiudo con questo, che si sono collegati a una particolare tecnologia che è quella della blockchain, anche in questo caso per farla conoscere, per cui tutti i prodotti che vengono proposti all'interno sono certificati nella loro filiera attraverso questo controllo blockchain. Luisa Schiero, grazie, alla prossima. Arrivederci. Il consumautore. Questo è il momento della riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Moracce. Ciao Francesco, ben trovato, buonasera. Buonasera Maria Luisa, buonasera. Questa sera vogliamo ricordare e rendere omaggio a uno scrittore, filosofo, saggista, accademico, grande ispiratore per tutti, scomparso purtroppo pochi giorni fa, Franco Bolelli. Francesco. Sì, anche per me, per noi di Future Concept Lab, un amico fraterno che ci ha accompagnato davvero in tutti i progetti più sfidanti, ecco, dovendo scegliere delle parole che connotano la sua attività, sicuramente questa idea di espansione vitale, ma anche l'idea agonistica, ma non, diciamo, aggressiva, no, del gioco, e quindi dello sperimentare sui limiti, tanto che, insomma, mi piace ricordare che il Festival della Crescita, che poi è un po' caratterizzato i nostri ultimi 5 anni, nasce da un suo editoriale, dalla sua idea che proprio di decrescita felice non si potesse parlare. Ecco, quindi ci ha veramente accompagnato, come mi piace definirlo, un compagno di giochi, perché si veniva qui a ragionare insieme, a definire nuovi progetti. Pensatore eclettico, grande ispiratore, dicevamo, trasversale, dalla musica all'architettura, passando per tutte le declinazioni dell'ingegno. Bolelli ci ha insegnato l'arte della contaminazione quando in pochi osavano farlo, Francesco. Per lui lo slogan era connettere tutto e tutti con tutto, no? E quindi non a caso il libro che poi ha scritto con Jovanotti, con Lorenzo Cherubini, si chiama proprio Viva Tutto, perché aveva questa capacità di lavorare anche sui margini, no? Sui pensieri magari più nascosti, e l'altra grande sua capacità era quella di dialogare con le aziende. I suoi grandi progetti di festival, da Frontiere in giù, è sempre stata la capacità di proporre al mondo aziendale, quindi anche a chi ci ascolta, questa visione diversa ma anche compatibile con le organizzazioni e con le logiche delle aziende. Non è una cosa facile da incontrare. Pensiamo sempre in termini contaminati, anche aziendali, alla sua riflessione sul gioco e al libro intitolato Giocate con un bel punto esclamativo. Assolutamente, l'altra cosa che lui faceva sempre era mescolare il personale e il professionale, quindi quel libro lui l'ha scritto per la sua nipotina dorata Isabella, e partendo da queste lunghissime conversazioni fatte con la nipote che era a Los Angeles, quindi utilizzando Skype, decise di scrivere questa sorta di manuale per tutte le età, dai 5 ai 90 anni, e quindi questo spirito ludico che per lui era davvero il sale della vita. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.